Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi da Nicoletta. Oggi puntata dedicata al lato B dei difetti. Però che cosa stavate pensando? Difetti ne abbiamo tutti a livello fisico, caratteriale. Alcuni li conosciamo bene, molti non li conosciamo in modo diretto, ma ci vengono indicati da chi ci vive accanto. Alcuni difetti li abbiamo metabolizzati e accettati al punto da nutrire per loro quasi una forma di affetto, con altri ancora, anche a distanza di anni, non abbiamo ancora fatto pace. 800 24 00 24 per raccontare i nostri difetti, parlo al plurale perché di solito ne abbiamo più di uno, e per scoprire che in fondo, forse la realtà non è poi così nera. E poi, detto tra noi, cari amici, la perfezione non rischia di essere un po' noiosa, un po' sciapa? Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Bella, tu sei bella, o mia regina, ma attenta, al mondo una fanciulla c'è, vestita sol di stracci, poverina, ma ahimè, assai più bella di te. Guai a lei, dimmi il suo nome. Ha la bocca di rose e ha d'ebano i capelli, come neve è bianca. Bianca neve. Specchiatevi anche voi e chiamatemi 800 24 00 24. Ci sono difetti che, sfruttati bene, brillano più della stessa virtù. François de La Rochefoucauld. Lo sanno bene molte attrici che sono riuscite a trasformare un difetto in un punto di forza, di fascino, di appeal. Sentite per credere, qui in studio con me Marta Cagnola. Ciao Marta! Buongiorno Nico, sparliamo un po' delle dive. Noi le vediamo sempre perfette, aiutate talvolta dal bisturi, molto spesso dal Photoshop, sempre dal trucco. E finisce che noi comuni mortali ci sentiamo sempre brutti anatroccoli. Eppure anche le star hanno dei complessi. A volte li superano, come dicevamo, chirurgicamente. Prendiamo il complesso del naso importante, perché forse solo Barbara Streisand ne ha fatto una bandiera. Le altre invece hanno preferito intervenire, diciamo così. In poche lo confessano, come Simona Ventura, che pare abbia messo ben 3 ritocchi. Anche al décolleté, un'altra zona spesso oggetto di modifiche, talvolta non dichiarate, ma sempre scoperte, tanto più che profili molto poco naturali spesso fanno capolino dai ridotti abiti da red carpet. Se siete curiosi di scovarli, ci sono proprio siti specializzati, soprattutto negli Stati Uniti, come awfulplasticsurgery.com o plasticcelebritysurgery.com. Non ci sono quindi bugie che tengano. Meno male però che esistono anche attrici che hanno fatto pace con il proprio décolleté scarso, che peraltro poi è il prezzo da pagare spesso per la magrezza, come Laura Chiatti, che però ha dichiarato di non aver mai vissuto con serenità la sua altezza, non proprio vertiginosa, e infatti la si vede sempre in tacco 12. Problema inverso per Nicole Kidman, che sosterrebbe di aver sempre desiderato 5 cm in meno dei suoi 179 per non doversi ritrovare sempre a guardare gli uomini dall'alto. Ma spulciando in rete pare che il complesso più frequente tra le star sia quello del lato B, diciamo così, che pare ossessioni addirittura uno stecchino come Keira Knightley o Kate Winslet, che ora è la metà dei tempi di Titanic, che stiamo per rivedere in sala, ma dice di sentirsi sempre grassa e infelice. E anche Cameron Diaz, che invece però vorrebbe un po' più di rotondità. Gossip veri o falsi, beh, come sempre, non si sa, però io quando li leggo, tutto sommato, un po' mi consolo e sorrido. Non so tu, Nicoletta. Beh, io Marta mi associo, sorrido con te. Grazie a Marta Cagnola, e intanto noi andiamo a scoprire sempre ancora il lato B di alcuni difetti, perché se ci mettono un po' in crisi davanti allo specchio potrebbero portare dei vantaggi per la nostra salute. Ne parliamo con il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, che è in linea con noi. Buongiorno. Ah, buongiorno a tutti voi. Dottore, i dati di alcune ricerche mostrano il lato B di alcuni difetti fisici che ci mettono più in crisi, ad esempio il naso. Sì, guardi, il naso ha una situazione per cui di fatto un naso più, diciamo, presente, no? È espressione, se sappiamo, espressione di carattere. Spesso si dice, giusto che ho sentito prima iniziare la trasmissione con un riferimento al lato B, io dico che spesso c'è una connotazione con le proporzioni, ma non andiamo a pensare a nulla, per favore, però invece ci sono degli elementi importanti legati al fatto che un naso più importante, ad esempio, aiuta a non russare, che è un naso più rilevante, ha più spazio, diciamo, nei corne nasali, quindi mantiene un'ossigenazione efficace anche durante la notte, filtra meglio l'aria, questo è un dato abbastanza importante. Una nota forte, il difetto in per sé comunque dipende sempre dallo stato emotivo. Io racconto, vedo pazienti che arrivano in fase di innamoramento e che mi dicono: ah, che tenero il mio fidanzato, che occhietti che ha, e poi magari in fase di abbandono, il bastardo con quegli occhietti piccoli, no, capito? Quindi ci sono degli elementi che vanno visti anche secondo la contestualizzazione. Senta, dottor Speciani, scendiamo al décolleté, siamo partiti dal naso. Décolleté generoso, piace, ma... Ma sì, diciamo che ci sono due elementi importantissimi. La quinta misura e la quarta misura hanno il loro perché, fondamentalmente, però ci sono elementi. Uno di postura, spesso sento persone che dicono: ah, avessi il seno più piccolo, per cui perché mi sento il peso alla schiena, eccetera. E poi c'è un dato importante, nel senso che una volta scrissi un articolo, il seno grande dolce come il miele, proprio perché c'è una documentazione sul fatto che quando ad esempio in età non adolescenziale ovviamente, ma già da adulti, il seno tende a crescere come volume, c'è una correlazione specifica con una resistenza insulinica e quindi con la possibilità di ammalarsi di malattie, diabete eccetera, che sono abbastanza importanti, quindi c'è una correlazione decisamente rilevante da questo punto di vista. Che dire del lato B? Meglio piccolo, sodo, alto, invece spesso è abbondante, senza tono, un po' basso e cadente. Ah no, qui rispondo sul lato evoluzionistico, no? Perché è vero, cioè, c'è il suo perché, però dal punto di vista della fertilità, quindi della possibilità, della facilità di avere figli, un sederotto un pochettino più un lato B lievemente più paffutello e i fianchi un pochettino più formosi sono un sicuro indice di miglioramento, come dire, c'è una tendenza ad un outcome, ad una possibilità di raggiungere una gravidanza molto più elevata, e sicuramente c'è un'azione protettiva che è tipica del femminile nei confronti della malattia cardiovascolare, quindi le persone che, è vero, magari hanno un lato B un pochettino meno alto di qualche star, però sono comunque ben fatte, tant'è che si parla del lato B a mandolino, a cuore, tanto per dire come effettivamente abbiamo dei dati positivi che emergono anche da questo apparente difetto. Senta, arrivano già molti messaggi sul lato B, 349-238-6666, allora io vi porto alle orecchie, così vi distraggo un attimo. La nonna di Cappuccetto Rosso diceva che servono per sentirci meglio, non credo che questo sia provato, ma ci sono sempre serve un po', però in realtà l'orecchio, quello che si sta scoprendo, è che ha una rappresentazione corporea e di tutta la struttura dell'organismo, quindi in persone con orecchie più capienti c'è una migliore capacità di organizzare la propria posizione nell'ambiente esterno, proprio quindi dal punto di vista dell'equilibrio di alcuni di questi elementi, per cui diciamo che in condizioni, nella vita normale uno dice: cosa me ne importa, provate ad avere una vertigine o qualcosa del genere, e quando avete le orecchie più grandi di solito questo è meno frequente e quindi aiuta senza ombra di dubbio, quindi vedi che belli e brutti ci piacciono tutti, ma dottor sì Speciani. Dai, assolutamente, chiudiamo così, grazie dottor Speciani per essere stato con noi. A voi e buona giornata. Stavamo parlando prima del carattere, mi hai fatto delle domande sul carattere e allora si è parlato delle facce, ma la questione è molto più profonda di così. La questione è: tu ne hai di carattere o no? E se vuoi la mia sincera opinione, Bob, non ne hai. Per la semplice ragione che ancora non provi rammarico per qualcosa. Vuoi dire che non avrò carattere finché non avrò fatto qualcosa che mi rincresce? No, Bob, perché di sicuro hai fatto tante cose di cui rincrescerti, solo che non sai quali sono. E quando alla fine le scopri, quando vedi l'assurdità di qualcosa che hai fatto e desidereresti tornare indietro, cancellarlo, ma sai di non potere, perché è troppo tardi. Quindi quella cosa non puoi che prenderla e portarla con te, perché ti ricordi che la vita va avanti. E come per i difetti fisici, vorrei spezzare una lancia anche per i difetti caratteriali. Anche loro non vengono spesso sempre per nuocere. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi. Intanto noi ne parliamo col dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo, nonché un nostro esperto del Daily Lab, che vi invito sempre a visitare. Dottor Aquilar, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Dottor Aquilar, inutile nasconderci dietro un dito, i difetti ci sono. Detto questo, cosa vogliamo fare? Nasconderli, come si fa con la polvere sotto il tappeto, sperando di farla franca? Fare pace, sfruttarli a nostro vantaggio? Possiamo usare un vecchio principio della psicologia della pubblicità, trasformare il minus in un plus. Quel difetto possiamo trasformarlo fino a farlo diventare un pregio. È un po' faticoso, ma ci possiamo provare. Dottor Aquilar, oggi noi vogliamo parlare del lato B e lo vogliamo fare anche dei difetti caratteriali. Ad esempio, la pignoleria. Molte persone sono pignole, precise. Può mostrare un lato positivo? Il lato positivo della pignoleria è l'affidabilità e la possibilità anche di effettuare una verifica delle eventuali ipotesi che vengono fatte. Ovviamente anche la pignoleria deve essere alleggerita e non deve diventare una pignoleria astratta, perché a volte i pignoli, per focalizzare la loro attenzione su un dettaglio irrilevante, si perdono il quadro generale d'insieme. Quindi noi dobbiamo lavorare per modulare i nostri difetti. A quel punto li trasformeremo in una qualità, come in questo caso per esempio nella precisione e nella verifica. A qualcuno di voi, lo chiedo, sarà capitato di sentirsi fare durante un colloquio di lavoro la fatidica domanda: mi dica tre pregi e tre difetti. Dottor Aquilar, sembra una domanda proprio fatta apposta per mettere a disagio, o forse potrebbe diventare a sorpresa un'occasione per fare una splendida figura, tant'è che non è facile rispondere. Non è facile rispondere e, come al solito, conviene utilizzare la risposta più sincera. Perché a quel punto i nostri difetti, se noi riusciamo a riconoscerli, segnaleremo nell'interlocutore che abbiamo la possibilità anche di modularli e di gestirli. Non è soltanto nel colloquio di lavoro, spesso anche nel primo colloquio in psicoterapia si chiede alla persona quali sono i suoi pregi e i suoi difetti, per avere un'idea di come lui vede se stesso, al di là di avere la conferma se sono o non sono presenti quei difetti reali. Quindi possiamo giocare a fare un allenamento e a vedere i pregi e i difetti delle persone. Giochiamo, dottor Aquilar. Allora chiediamo ai nostri ascoltatori di scriverci o di chiamarci raccontandosi, descrivendosi con tre pregi e tre difetti, e il dottor Aquilar vi aiuterà a riarmonizzarli, possiamo dire così, dottor Aquilar? Certamente, e anche a metterli nella giusta luce, perché è molto diverso anche il modo nel quale io descrivo un pregio o un difetto, perché lo posso mostrare in un modo narcisista oppure in un modo paranoide, eccessivamente preoccupato, e in realtà quello che l'interlocutore vede non sono i miei tre pregi e i miei tre difetti che racconto, ma è il modo nel quale io descrivo me stesso. 800 24 00 24, se non ne avete 3 e 3, 2 e 2, ma insomma parlate dei vostri difetti. Tu sei bella, sì. Dentro, hai il più bel dentro di tutte, no ma anche il fuori, insomma, con quel nasino proprio al centro della faccia, tra gli occhi, che occhi, Patti, hai degli occhi bellissimi. Che cosa vedi? Vedo che hai un sacco di rughe, Patti, queste qui sembrano due parentesi grafiche con dentro un'equazione di secondo grado. Ma io non vedo le tue rughe, Tom, io vedo tutta la nostra vita insieme. Questa mi parla di quanto tu ti sia impegnato perché non ci mancasse niente. Questa di quando Penny è caduta dall'albero e si è rotta un braccio. Queste delle migliaia di risate che ci siamo fatti durante quei periodi difficili. È come una mappa del nostro matrimonio. Io non so se definirlo un difetto o una fragilità, ma è difficile per molti di noi accettare l'idea del tempo che passa, e i segni soprattutto che il tempo lascia sul nostro corpo, sul viso in particolare. Così le rughe, piccoli cedimenti diventano proprio difetti quasi da cancellare. In linea con noi anche oggi è tornato a trovarci il professor Antonino Di Pietro, direttore del servizio di dermatologia all'ospedale di Inzago in provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buon ritrovati a tutti. Buon ritrovatissimo. Noi sogniamo di vederci fuori come ci sentiamo dentro, e spesso abbiamo l'impressione che la nostra immagine non ci rappresenti. Da qui, credo, la necessità di ringiovanire, di spianare, cancellare, sollevare, modellare. E oggi, per fortuna, tutto questo è possibile. Sì, certo, ma anche perché noi ci sentiamo sempre giovani e in effetti poi col carattere, con l'animo, lo siamo davvero. Gli entusiasmi restano spesso identici a 60 anni, a 80, addirittura come magari a 30 o 40. E allora c'è questo stridore, cioè noi ci sentiamo giovani dentro, poi ci guardiamo allo specchio e ahimè soffriamo, diciamo, ah, non sono più quello di prima, le rughe, le macchie, no? La pelle un po' spenta. E qui possono sorgere grossi problemi, perché in questa voglia a tutti i costi di restare giovani o ancora peggio tornare giovani, si possono veramente creare grossi problemi o delle tra virgolette mostruosità. Insomma, come dice il vecchio proverbio, il meglio è nemico del bene. Sì, giustissimo, giustissimo. Ma allora, sicuramente è un nostro sacrosanto bisogno e anche diritto quello di mantenerci in forma, mantenerci anche giovani, cioè dare il meglio di noi a chi abbiamo di fronte o anche allo specchio. Ecco, cioè alzarci la mattina, guardarci allo specchio e dire sì, oggi mi vedo bene, questo ci dà tanta carica ed è un nostro sacrosanto diritto. E possiamo anche farlo, perché la medicina, la dermatologia, le ricerche in questo settore ci offrono attualmente sicuramente delle soluzioni anche buone. L'importante è avere un obiettivo davanti, restare più giovani aiutando la pelle, le cellule a vivere. Quindi dobbiamo imparare che la strada giusta è nutrire la pelle e aiutare queste cellule a fare più collagene, più elastina e quindi ad avere un aspetto naturale ma più giovane. Scordiamoci di eliminare le rughe a tutti i costi, perché quando cominciamo a dire questa ruga non mi piace più, non la voglio più vedere, la voglio eliminare, e lì cominciano i guai, perché poi ci si pompa, tra virgolette, certo, la faccia, si gonfiano. E arriviamo a quelle facce omologate. Tra l'altro di questo lei parla nel suo libro, di una bellezza autentica. Molto autentica, naturale, nel suo ultimo libro Botuli in Free invita proprio a puntare su questo genere di bellezza, ma lei invita anche a guardarsi allo specchio in modo più con maggiore equilibrio. Dottor Aquilar, questa è una buona indicazione, spesso noi ci poniamo di fronte allo specchio in modo troppo critico. Sicuramente, e questo poi a volte dà la stura addirittura a fenomeni che vengono chiamati di dismorfofobie, cioè della paura di essere in qualche modo deformi o di essere diventati deformi con l'andare del tempo. Questo è un problema molto fortemente sentito, spesso alcune persone richiedono psicoterapia perché altrimenti vanno a sottoporsi a chirurgia estetica ricorrente, per esempio. Ecco, professor Di Pietro, come possiamo accorgerci che stiamo prendendo questa strada pericolosa, quindi che non ci accontentiamo mai? Sì, ma vedi che è molto frequente quello che adesso ha appena detto il dottor Aquilar. Io lo vedo quotidianamente con i miei pazienti, o lo vedo con pazienti che arrivano da me perché magari hanno già una faccia devastata, perché hanno una faccia già piena di tutto oppure paralizzata all'inverosimile, vengono da me perché dicono sai, io ho sentito parlare di lei, vengo da lei perché vede che c'ho ancora questa rughetta, e poi magari è una faccia che sembra una maschera da clown, e quindi oppure mi si muove ancora questa parte del viso perché magari sono piene di botulino, riescono a muovere solo l'ultimo muscoletto davanti l'orecchio e poi sono tutte paralizzate, anche quello per loro è un difetto. Quindi c'è questa dismorfofobia, ma soprattutto la cosa grave è che si crea, ed è un fenomeno che vediamo negli ultimi anni, una assuefazione al rifatto, cioè una faccia completamente devastata dalla medicina, dalla chirurgia estetica, e non sono mai contente, quindi dicono ma c'ho ancora questo difetto. Quindi invece Piero da Caserta ci scrive: da uomo trovo antiestetico ogni ritocco e molto sensuali i cosiddetti difetti. Professor Di Pietro, grazie, ricordo il suo libro che vi invito a leggere, Botulin in Free, la ringrazio per essere stato con noi. È un piacere, a presto. Mi dice i suoi tre pregi e tre difetti? Così al volo. Beh, allora, difetti vediamo un po'. Dormo poco perché non riesco, e quindi si lamentano sempre chi mi sta vicino. Sono irrequieto perché devo sempre preparare nuove cose, nuovi progetti e tutto. Ecco, poi forse un grosso difetto è che non riesco a perdonare al 100%. Ammetto di essere un po' indicativo. I pregi, sono ottimista, è caparbio. Mette in testa una cosa, devo fare, insomma. Allora, anche di questo parleremo con il dottor Aquiler. Intanto io devo volare a dare i mercati e il meteo. Vi ricordo, chiamateci 800 24 00 24, tre pregi e tre difetti, e vi faremo nuovi. A tra poco. Daily Lab, i consigli della salute. Essere e benessere. Proviamo a fare pace con i nostri difetti e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, stanno rispondendo in tanti all'800 24 0024, di raccontarsi descrivendo tre pregi e tre difetti. Abbiamo subito Elvis da Roma. Buongiorno Elvis. Buongiorno agli ospiti e a voi in studio. Grazie. Elvis, si racconti. Io ho la penna. Il dottor Aquiler è pronto? Dottor Aquiler? Eccomi. Ecco, perfetto. Allora Elvis, iniziamo, da che cosa vogliamo iniziare? Dai pregi o dai difetti? In realtà sono chiaramente due lati della stessa medaglia, però come volete, cominciamo da dove. Dottor Aquiler, conduca magari il gioco, meglio iniziare dai difetti o dai pregi? Lo deve scegliere l'ascoltatore, perché anche quello va interpretato. Ahia, ecco, allora Elvis, vada. Allora, cominciamo dai difetti. Dai, quali? Dai difetti. Allora, l'incostanza. Sì. La testardaggine e la passionalità. Mentre i pregi sarebbero controsensi, ma magari il dottore ci aiuta. Eh sì, e no, e noi l'abbiamo chiamato apposta, perché tutti voi potete chiamare e farvi fare una sorta di profilo, cercando, il dottor Aquiler cercherà di riarmonizzare il tutto. Magnifico, come in una buona ricetta di cucina. Pregi, Elvis. Coraggio. Coraggio. Ambizione e creatività. Dottor Aquiler. C'è una bella, è un patchwork il nostro Elvis da Roma, perché l'ambizione insieme all'incostanza si annullano a vicenda. E quindi se io sono ambizioso ma contemporaneamente incostante, non mi darò mai il tempo di raggiungere il primo obiettivo che ci avevi in mente, perché dopo un po' me ne viene il secondo. Quindi questa è la prima cosa. La seconda, poiché i difetti rappresentano sostanzialmente un continuum dei pregi, sì, noi potremmo vedere i pregi che ci sono nei difetti che racconta Elvis. Quindi l'incostanza, il pregio dell'incostanza è il piacere di esplorare tutte le possibilità. Quindi è una persona che non si accontenta di stare fermo in un frammento, ma va ad esplorare moltissime possibilità. La testardaggine c'ha il vantaggio della tenacia, dell'essere impegnato, dell'essere continuativo in un determinato settore, e la passionalità ha il vantaggio di essere emotivamente coinvolto nelle situazioni. Quindi va benissimo la struttura di Elvis, e il suggerimento è di trasformare questi difetti appunto in pregi, esplorare le possibilità ma senza dimenticarsi quella su cui stiamo investendo, essere assolutamente tenace ma resistendo anche al tentativo di respingere qualsiasi critica, e impegnarsi senz'altro con il cuore, ma non sempre gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché poi ci serve che sia al suo posto nel petto. Elvis, ricevuto tutto? Ricevuto. Ok, allora Elvis, buona fortuna. Andiamo ad Andrea, che ci chiama da Torino. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno a voi e grazie. Io proprio per quella cosa che stavate dicendo adesso col professore, sì? Ho telefonato avendo in mente, è stata proprio una cosa di getto, tre qualità che sono al tempo stesso pregi e difetti. Io lo vedo che sul lavoro, in famiglia, con gli amici, sono proprio queste tre cose un po' che condizionano la mia vita. Sì. Il fatto, prima di andare sempre a valutare nelle cose pro, contro e che cosa succederà, che cosa potrebbe succedere, quindi cercare sempre di premunirsi, di anticipare, il che mi rende un buon organizzatore ma anche più ansioso, ma anche molto ansioso. Sì. Un'altra qualità è quella di parlare tanto, mm-hmm. e quindi cerco di contenermi perché la trasmissione è breve. La terza cosa è anche il fatto di tentare sempre di coinvolgere gli altri, cioè andare sempre a cercare a volte l'approvazione, a volte il poter consenso. Fare qualche cosa insieme ai colleghi, il consenso e anche il coinvolgimento, perché magari se c'è una cosa che mi piace cerco di coinvolgere chi mi sta vicino e creare un gruppo, il che non sempre è gradito, quindi può essere un bene, può essere un male. Ma dottor Aquila, Andrea si è già fatto una sorta di profilo, vero? Ha già lavorato? Si è già fatto una sorta di profilo, ci ha lavorato e sicuramente anche lui si è reso conto che i suoi tre pregi e difetti hanno una cosa in comune, il controllo. Sono tutti orientati intorno al controllo di se stesso e al controllo degli altri, il che sicuramente, come lui diceva, lo rende un buon organizzatore, però qualche volta gli altri pure si scocceranno di sentirsi così ipercontrollati e potrebbe essere uno che controlla anche moltissimo se stesso. Quindi, fermo restando che il lato positivo del pregio è quello che lui raccontava, io gli suggerirei ogni tanto di fidarsi un po' di più del fatto che le cose possono andare bene, anche in maniera migliore di come noi potremmo immaginarci, se rinunciamo all'ipercontrollo e ci rilassiamo un momento. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Siamo qua, Marco. Okay. Io non penso che esistano né difetti né pregi. Bravo. Spiego. Sì. Le considero come delle note. E quindi come delle note musicali. Non è che una nota è bella, una nota è brutta. È l'insieme delle due note che fanno. Do con mi fa allegria. Certo. E mi con fa nostalgia. Quindi sono due lati della stessa medaglia. Neanche, no, è d'accordo. Quindi è d'accordo che abbiamo di fronte. Quindi ecco che viene l'ascolto e distinguere bene i tre livelli, intimo, privato e pubblico. A questo punto, se va d'accordo, non se va d'accordo. Dottor Aquila, Marco e Spiccio. Sono d'accordissimo e mi sta benissimo anche il suo, come dire, paragone musicale, mi va molto bene. Lui parlava appunto di intimo, privato e pubblico che dovrebbero essere messi insieme. Sono d'accordo, possiamo considerare i pregi e i difetti anche come caratteristiche, però naturalmente dobbiamo essere consapevoli che il nostro accordo deve andare d'accordo con l'accordo dell'altro. Altrimenti si fa una cacofonia terribile e non otteniamo una sequenza musicale ma semplicemente un disturbo. Quindi l'attenzione andrebbe posta sull'armonizzare i tempi degli accordi tra le persone. Per il resto va benissimo. E noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo subito dopo insieme con Anita che ci chiama dalla provincia di Milano. Essere e benessere. Anita, buongiorno, dalla provincia di Milano, 800 24 00 24. Stiamo raccogliendo i pregi e i difetti degli ascoltatori di Essere Benessere. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti, eccomi qua. Allora, io inizierei dai pregi. Vada. Perché sono quelli che forse noto di più. Allora, sono affidabile, sincera, sì. Autonoma, sì. Entusiasta. E poi potrei andare avanti, ricca, dentro, creativa. Ma mi piace iniziare dai pregi, sì? I difetti non ne abbiamo. Allora, il difetto, no, ci sono. Ah. Sono sincera, quindi è anche un difetto. Sì. Un po' diffidente, puntigliosa e forse modesta. Anita, mi piace, dottor Aquilar. E certo, perché non ha paura di dichiarare quelli che ritiene i suoi difetti. Perché li nasconde dietro una raffica di pregi E in realtà Anita ci racconta che con tutti questi pregi che lei valuta in se stessa ha sempre paura che gli altri non siano alla sua altezza. Ecco perché poi diventa diffidente e puntigliosa. E ovviamente il suggerimento è di godersi l'affidabilità, che mm-hmm. sicuramente è una cosa utile sia per lei che le persone che le stanno vicino, ma anche di ridurre leggermente le aspettative sugli altri, perché se io vado incontro agli altri con questo pacchetto così alto di aspettative, mi sentirò delusa e metterò a disagio l'interlocutore. Quindi io ridurrei leggermente le aspettative sugli altri. Per il resto va benissimo. Per il resto, Anita, va benissimo. Ma, dottor Aquilar, fino a quando li diciamo noi, li riconosciamo noi i nostri difetti, va bene. Quando ce li fanno notare gli altri, lì è più difficile da mandarli giù. È molto difficile da mandarli giù perché moltissimo dipende dal tatto e dalla forma, dal linguaggio che viene utilizzato nel farci notare questa cosa. Proprio ritornando al tema di prima, che i difetti e i pregi possono essere visti per ogni settore come un continuum, come una continuazione, se noi vogliamo dire a quell'altro che è chiuso potremmo dirgli che è pensieroso e cauto, se gli vogliamo dire che è passivo potremmo dirgli che è accettante. Se vogliamo dirgli che è arrabbiato, potremmo dirgli che è coinvolto. Ecco, se noi vogliamo suggerire ad una persona di fare caso al suo difetto, forse dobbiamo utilizzare un linguaggio più attento e rispettoso dell'interlocutore. E se invece riceviamo proprio invece da un altro la denuncia di un nostro difetto senza alcuna attenzione, è giusto in qualche modo sentirci feriti e reagire? Ma spesso si peggiorerà la situazione. Esatto, quindi è inevitabile che possiamo essere, diciamo, feriti nel nostro cuore, soprattutto se la comunicazione del difetto ci viene fatta a sorpresa, perché molto spesso è l'emozione di sorpresa che ci disorienta. Però potremmo stabilire come criterio generale quello di dare ragione all'interlocutore, è il modo più semplice per tagliare la questione. Hai ragione, ci penserò, e poi di provare a scherzarci sopra per alleggerire. Poi magari, chiudendoci noi stessi, esprimeremo con un amico la rabbia per questo intervento. Vito, dalla provincia di Sondrio, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno Vito. Da che cosa iniziamo? Facciamo un misto, mettiamo dentro geniale, creativo, irresponsabile, passionale, geloso, incostante. Queste sono più o meno, dobbiamo ridurle a sei tra pregi e difetti, come mi vedo io. E la vedono così anche gli altri, Vito? Sì, nel bene o nel male. Abbastanza. Vengo sfruttato per i miei pregi e a volte diciamo mi trovo in difficoltà per i miei difetti. Dottor Aquilar. E qui c'è tutta una passionalità. Una passionalità nella creazione, una passionalità nel sentirsi responsabile, una passionalità anche nella gelosia e una passionalità che c'è dietro anche l'incostanza, perché di fronte a qualsiasi evento con il quale io entro in contatto mi appassiono, che è una cosa bellissima, vitale e assolutamente interessante. L'unico suggerimento per Vito è di provare a modulare leggermente la sua passionalità in tutti questi settori, perché altrimenti rischia di sentirsi fortemente deluso dalla poca collaborazione degli altri in questa sua passione, e dobbiamo evitare che le passioni ci mangino. Le passioni sono bellissime, ma dobbiamo dominarle noi, quindi se riusciamo a ridurle leggermente possiamo godercele anche fino in fondo. In chiusura io vorrei provare a vedere ancora i difetti ancora da un'altra prospettiva. In linea con noi abbiamo Lama Michel, maestro buddista, buongiorno. Buongiorno. E come si pone un monaco buddista nei confronti dei difetti? Innanzitutto i difetti sono importanti dal punto di vista di poter riconoscerli per poter crescere, ossia quando si parla della nostra propria ignoranza esiste l'ignoranza di non sapere e l'ignoranza di saper sbagliato, no? Perciò quando io non so dei miei difetti molto difficilmente potrò fare qualcosa per migliorare, per cambiare, per mettere uno sforzo per fare un mio proprio percorso, mentre se io a mia volta vedo che c'ho qualcosa che devo cambiare, a quel punto affrontarlo con gioia, anche perché nessuno di noi nasce perfetto, no? È qualcosa che ci può dare molto, ci insegna moltissimo questo. Quindi in generale nel buddismo, diciamo, saper riconoscere i nostri propri difetti è uno dei primi passi che dobbiamo fare. Insomma, dottor Aquilar, siamo abbastanza simili, no? Assolutamente sì. Il succo difetti è come una palestra di allenamento per fare un percorso, un passetto in avanti. Che ci conduca a essere compassionevoli verso noi stessi, ma nello stesso tempo sempre spinti a migliorarci. Tra l'altro, l'Amma Michelle sarà ospite, insieme a tanti relatori, medici, psicologi, terapeuti, di un evento molto interessante a proposito di difetti, nella ricerca di una bellezza, di un equilibrio tra corpo e mente, una giornata intera organizzata da Wild Society, che si terrà a Milano proprio venerdì prossimo alle Terme di Milano, quindi tanti insegnamenti. L'Amma, buongiorno, grazie per essere stata con noi. Niente, è un piacere. E andiamo rapidamente a Cristina, che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno Cristina. Ci fa chiudere in bellezza? Sì, allora spero. Allora, io sono un ottimista, un entusiasta, sono buona, invece con i caparbia, nei difetti, sì? Nei pregi, spesso e volentieri, pur essendo ottimista, mi intristisco e questo mi crea qualche problema con gli altri. Sicuramente ho delle attese nei confronti degli altri, però vorrei essere più tollerante, faccio fatica ad essere tollerante. Però ha già trovato un'indicazione, dottor Aquila, in 30 secondi. Cristina ha iniziato a presentarsi con i suoi pregi, entusiasta, ottimista. Ma e poi si è fatta anche la diagnosi, perché c'è un livello di aspettative un po' troppo alte e soprattutto quando noi lavoriamo sulla parte ottimistica, che è coltivare la speranza sostanzialmente, non dobbiamo arrabbiarci che altri non abbiano la stessa condivisione del nostro entusiasmo. Al tempo ci arriveranno anche loro. Quindi un po' meno. I nostri ascoltatori sono bravissimi, perché si fanno anche già il profilo. Dottor Aquilar, grazie per essere stato con noi. Buonissima grazie giornata. A voi e buona giornata a tutti. Intanto io vi ricordo che domani, giovedì, puntata Mangia con me, io vi invito, siete naturalmente invitati a compilare il questionario che è sul nostro sito. Compilatelo e potreste essere selezionati e diventare protagonisti di una delle prossime puntate. E intanto per adesso vi saluto con i vostri pregi, i vostri difetti e anche i miei. Noi ci sentiamo naturalmente domani, potete seguirci anche su Twitter, raggiungerci su Facebook e mandarci un'email. Grazie e buona giornata. Essere e benessere.